Adesso, se non ha avuto problemi con le parole e le espressioni, ascolti il dialogo. Mi scusi, per andare al parcheggio in Piazza della Libertà. Piazza della Libertà. C'è l'autobus, il 32. Porta proprio in Piazza della Libertà. Dov'è la fermata? È lontano? No, è a 50 metri, uscendo a sinistra. Benissimo, grazie. Adesso andiamo al bar. To a bar? You mean for a drink? No. Andiamo a comprare i biglietti dell'autobus, the bus tickets.